notte. And the smile is suspecting to be not what is expected. But you cannot collect it. Super strange. You can call it super strange, yeah. You can call it super strange. You can call it super strange, yeah. Cammino perfetto, sentire l'affetto. Cammino perfetto, sentire l'affetto. L'affetto. Quando riesci a trovare il passo, nessuno ti rompe il cazzo. Cammino perfetto, sentire l'affetto. E godi come un bastardo.

state attenti. Sono un bastardo e a volte un buono, a volte non so neppure come io sono. Mi piace qualunque cosa che è proibita, ma vivo di cose semplici, vivo la vita. M, tua. Signori, è arrivato lui, il folclorista, Gigi D'Agostino. Gigi è uno che sta attento, sta in campana a paravento. Se non cose eterne. Ed io esisto dall'eternità. Lasciate ogni speranza, o voi che entrate. Roba di cattedra. Capito? Fette spiego. Bello, bello, cos'è? Tira, molla, tira, molla, tira, molla. Adana del solo comunque, è molto detto. Salotto, alle 18. titolo? Borgia. Qua R o qua R? Beh, vabbè, comunque si capisce. Borgia. Artista. Artisti. Beh, artista. Romagna, Romagna. Bella Borgia, magna un po' Romagna. Sono due che provano a fare gli artisti, ma non c'è verso. Avventure di un nuovo mondo, Gigi D'Agostino. Capisci un po' sta musica? L'inventore di tutto questo è solo Gigi D'Agostino. È inutile che giochiamo sul comodino. Comodino. Aprile 2006, ore 22, Gigi D'Agostino alla discoteca Roncaccio, via Milano 19, località Bizzarrone, provincia di Como. Bizzarrone, se non viene sempre lì. E niente, allora ci vediamo lì. Accento la radio su F2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accento la radio su F2O. Gigi D'Agostino. La sua musica prende vita. Accento la radio su F2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accento la radio su F2O. Gigi D'Agostino. La sua musica prende vita.

Assaggio l'aperitivo. Assaggio l'aperitivo. Un momento creativo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Assaggio l'aperitivo. L'aperitivo di oggi è... adesso vi presento Foca Loca. Sacca di sempre lento violento me. Il cammino di Gigi D'Agostino. Bang, bang, bang.